Anche Dante Alighieri, all'inizio della Vita Nuova, non resiste alla tentazione di fornirci alcuni dati concernenti l'amata Beatrice. Si tratta di un'anamnesi pudica e reticente, da cui tuttavia veniamo a sapere qualcosa sull'età della fanciulla, sul suo stato sociale e sul fatto che essa fosse gentilissima, di nobili e laudabili portamenti, addirittura un'angiola. Si giustifica pertanto che, aggiornandosi alle categorie di moda, i giornali si siano dati da fare per fornire i dati oggi ritenuti fondamentali per averci un'idea dei 10 partecipanti al cosiddetto gioco televisivo del Grande Fratello. Di ciascuno, allora, abbiamo saputo nome e cognome, luogo di residenza e stato civile, il loro carattere o la loro personalità, con il presumibile aiuto di qualche rappresentante dell'onnipotente corporazione degli psicologi, è stato sbrigativamente suddiviso in due aspetti: i difetti e i pregi. Tanto per ribadire ancora una volta sia che il manicheismo è sempre lo strumento più efficace per il governo delle relazioni sociali, sia che per avvalorare ciò che viene osservato e categorizzato da qualcuno, per conferirgli realtà e certezza, è bene che sembri dotato di esistenza propria senza bisogno dell'osservatore. I pregi e i difetti, come il bene e il male, sono sempre nella persona e mai in chi la giudica. Bene, o meglio, male. Così come nel primo Ottocento furoreggiavano la fierezza o l'indolenza, la mansuetudine o l'altezzosità, oggi si guarda al socievole, al divertente, all'intollerante, all'espansivo, al sensibile, all'impulsivo, al testardo e più che mai alla coppia costituita dall'ordinato e dal disordinato, che coppia che nei giorni del trionfo delle merci e dell'apogeo del pattume diventano categorie determinanti sia ai fini della convivenza che alla perpetuazione dei pubblici servizi di igiene. Residuo dei tempi in cui Policarpo De Tappetti non avrebbe mai potuto fare il granatiere e nel caso fosse giunto in ritardo all'ufficio avrebbe perso il posto di ufficiale di scrittura presso il ministero, ad un concorrente fra i difetti è stata ascritta la bassa statura e la scarsa propensione alla puntualità. Segno che anche fra gli psicologi si nasconde una talpa. Ogni epoca, d'altronde, ha le sue categorie. Mi sono detto che se nessuna delle concorrenti del Grande Fratello è giudicata gentilissima o assimilata ad un angelo, non è perché non ha nessun carattere della Beatrice Dantesca, ma più banalmente perché del significato di quella gentilezza oggi non abbiamo più la benché minima idea e perché degli angeli, dopo tante disquisizioni sul loro sesso, abbiamo imparato a diffidare. Le categorie e le parole per designarle dipendono dal quadro ideologico in cui sorgono e vengono applicate. A certi valori fanno seguito alcune, ad altri valori tutt'altre. Tutto chiaro, anche se poi varrebbe la pena di capire perché certe categorie non altre e perché certe parole e non altre. E tuttavia, in quell'elenco di categorie con cui ciascun protagonista veniva contrassegnato, c'era qualcosa che non andava. Alla seconda rilettura mi sono reso conto che sulla testardaggine valeva la pena riflettere. Non foss'altro perché nell'elenco era presente due volte. Due volte e soprattutto perché dell'elenco era presente in entrambe le parti, sia tra i pregi che tra i difetti. Alla faccia di ogni logica che vorrebbe rigorosamente diversi gli elementi di due classi contrapposte. Com'era dunque possibile che l'essere testardo sia un pregio e nello stesso tempo un difetto? Si era forse di fronte all'ennesima applicazione dell'antico argomento pragmatico in ragione del quale una tesi è giusta o sbagliata a seconda di quello che segue dopo che è stata formulata? Ebbene no. La soluzione del mistero stava lì, innanzi ai miei occhi, più misera e più triste che mai. Ancora una volta c'era un problema di genere. Testardo come pregio era attribuito ad un maschio, testarda come difetto era attribuito ad una femmina. Sentiamo che ne dice il dizionario: testardo è chi si rifiuta di ascoltare il parere altrui e non si lascia persuadere. E vediamo lo stato pietoso della nostra vita sociale. Il maschio che si rifiuta di ascoltare il parere altrui e non si lascia persuadere è uno che sa il fatto suo. La femmina che si rifiuta di ascoltare il parere altrui e non si lascia persuadere è una cretina presuntuosa. Per lo più va così. Sia che il fratello sia quello grande e sia che sia quello più piccolo. Dalla casa del grande fratello è stata espulsa infine la prima concorrente. Esce e categorizza. Le chiedono come sono quelli là dentro e lei li battezza uno per uno. Così ne viene fuori anche l'occasione per constatare fino a che punto il quadro ideologico degli psicologi è stato metabolizzato dai concorrenti stessi. Allora, alla luce dell'esperienza diretta della prima cacciata dal Neo Eden, il socievole e divertente è diventato poco comunicativo, superficiale e infantile. Il costante, coerente ma intollerante è diventato sciapo. Una prima disordinata è diventata quasi perfetta e una seconda disordinata, che in più era anche irascibile, è diventata dolce e sensibile. Il sensibile va molto ed è l'unica categoria ad essere applicata sia da chi governa il gioco sia da chi l'ha subito. Più cresce la pratica dell'indifferenza, più la nascondiamo con il linguaggio. Stupiscono nei giudizi della prima fuoriuscita due apparenti contraddizioni. Colui che era stato giudicato impulsivo sarebbe invece falso, e colei che era stata giudicata sincera sarebbe invece opportunista e calcolatrice. A riprova che l'applicazione di queste categorie non riguardano affatto le persone come sono in realtà, pretesa becera ed autoritaria, ma bensì le relazioni che si instaurano fra queste persone e chi le osserva e giudica. Ho dimenticato un dato. Oltre a nome e cognome, età, residenza, stato civile, pregi e difetti, i giornali fornivano di ciascun concorrente il segno zodiacale. Si ira, giusto, nello stesso giorno in cui i medesimi giornali, in altre pagine, sprizzavano scandalizzata costernazione per quanto capitato ad una giovane trevigiana. Era costei quella che si era presentata ad un colloquio per essere assunta in un'azienda torinese e che ad un certo momento si era sentita chiedere il proprio segno zodiacale. La sciagurata rispose: ma dall'altra parte del tavolo si insistette. D'accordo, segno zodiacale, d'accordo. Quale ascendente? Ascendente che la sciagurata non sapeva. Prego si accomodi, chi si è visto, assunzione sfumata. Ha fatto male a rispondere alla prima domanda, all'oscurantismo reazionario, se gli dai un dito ti prendono il braccio. I giornali del nostro tempo parteggiano volentieri per le vittime, ma prima devono pensare a procurarsele.